Aiuti per medici, lavoratori, famiglie, imprese. Un'iniezione di sostegno all'economia subito da circa 25 miliardi e finanziamenti mobilitati per 350 miliardi. Sono in sintesi i contenuti della manovra Cura Italia che il Consiglio dei Ministri ha licenziato oggi. Nelle ore di allarme massimo per la tenuta del sistema sanitario in Lombardia, il governo si prepara a varare misure, solo le prime, per frenare i contraccolpi economici dell'emergenza coronavirus e per sostenere la sanità. Alberghi requisiti, cliniche private a disposizione degli ospedali pubblici e la creazione di fabbriche per produrre mascherine. Nel concreto, le misure si sintetizzano in diversi capitoli. Per quello sanitario, il personale ospedaliero beneficerà di un surplus nel suo stipendio con un pagamento maggiorato per le ore di straordinario, se sono impegnati nel contrasto all'epidemia di coronavirus. Il governo chiede aiuto alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Dovranno aumentare a livello regionale del 50% il numero dei posti letto in terapia intensiva e del 100% il numero dei posti letto nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive. Per raggiungere questi obiettivi, Trento e Bolzano saranno autorizzate a stipulare accordi con cliniche private accreditate e, se non sufficienti, anche con cliniche non accreditate. Alla luce della straordinaria emergenza che vive il Nord Italia, le strutture private non potranno rifiutarsi di collaborare e dovranno mettere a disposizione, oltre ai loro immobili e ai macchinari, anche il personale. In cambio riceveranno un'indennità di requisizione. Anche la Lombardia, in prima linea nell'assistenza ai contagiati, viene autorizzata a sottoscrivere contratti con strutture private, accreditate come non accreditate, in deroga ai tetti di spesa. Pur di approntare presidi sanitari straordinari, il governo schiera il servizio sanitario militare. In concreto, è necessario incrementare il personale medico-infermieristico militare per 320 unità, di cui 120 medici e 200 infermieri, attraverso l'arruolamento straordinario e temporaneo con una forma eccezionale della durata di un anno. Il Ministero della Difesa è autorizzato alla spesa per comprare 2 ospedali da campo con le relative attrezzature in grado di garantire le attività di terapia intensiva. Misure speciali, inoltre, per le imprese indispensabili alla produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici. Ai loro dipendenti non si applicherà la misura della quarantena con sorveglianza attiva, anche nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa. In deroga alle norme per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un paese dell'Unione Europea o in paesi terzi, sarà possibile ingaggiare medici e infermieri che hanno ottenuto all'estero i loro titoli di studio. Obiettivo è fornire alle regioni e province autonome la possibilità di far fronte con celerità alle carenze di personale sanitario. La protezione civile potrà requisire presidi sanitari e medico-chirurgici da soggetti pubblici e privati. Invece le prefetture potranno requisire strutture alberghiere e altri immobili con analoghe caratteristiche di idoneità per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. In alberghi e strutture ricettive saranno sistemati anche i malati che hanno superato la fase più acuta e che, per ragioni di prudenza, non possono tornare presso le proprie abitazioni. Per quanto riguarda il lavoro, un bonus di 100 euro andrà a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore ai 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette ed è attribuito in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga, se possibile, con la retribuzione relativa al mese di aprile e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. Il decreto consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi se sono in situazioni di temporanea difficoltà destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare per la cessazione del rapporto di lavoro, sia esso a tempo indeterminato, determinato, parasubordinato di rappresentanza commerciale o di agenzia. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per il coronavirus potranno richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario per un periodo massimo di 9 settimane. A pagare sarà l'INPS. Previste procedure semplificate, per esempio escludendo il versamento del contributo addizionale. Una norma riguarda le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinari. I datori di lavoro iscritto al fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà potranno presentare domande di assegno ordinario. Una volta varato il decreto e per per 60 giorni, i lavoratori già licenziati non potranno avviare le procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi. Nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti, ma è previsto anche che il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti e per 60 giorni, non possa recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. I genitori, lavoratori dipendenti del settore privato e i genitori iscritti in via esclusiva alla gestione separata potranno beneficiare di un congedo di 15 giorni, continuativo o frazionato. L'aiuto è riservato a chi ha figli di età non superiore ai 12 anni. Riceveranno un'indennità pari al 50% della retribuzione o di un 365esimo del reddito. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata. Il lavoratore genitore convivente di una persona con disabilità può assentarsi dal posto di lavoro per causa di forza maggiore. La sua assenza non può dar luogo a giustificato motivo di licenziamento perché non integra né la fattispecie dell'inadempimento contrattuale né della rottura del rapporto fiduciario. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro fin tanto che le scuole sono chiuse senza corrispensione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Indennità di 500 euro per le partite IVA attive al 23 febbraio 2020 e per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatori. Identica indennità è riconosciuta ai co-co-co che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L'erogazione è in capo all'INPS. Nel decreto è ipotizzato anche una sorta di reddito di quarantena. La disposizione interessa i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del coronavirus e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore ai 10.000 euro. Questa disposizione istituisce un fondo per il reddito di ultima istanza volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità i cui criteri di priorità e modalità di attribuzione sono demandati ad un decreto del Ministro del Lavoro. Sono inclusi nel beneficio i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Per quanto riguarda le imprese, vengono sospesi per tutte le imprese sotto i 2 milioni di fatturato e per ogni azienda senza limite di fatturato dei comparti produttivi maggiormente in sofferenza come trasporti, turismo, ristorazione e cultura, i pagamenti di contributi, ritenute e IVA. Sono congelati, sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I termini riprendono a decorrere dal 1 giugno 2020, consentendo anche la rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi. Per quanto riguarda il fisco, sono sospesi i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. La disposizione precisa, inoltre, che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e dunque entro il 30 giugno 2020. Vengono congelati anche i termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Infine, erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. A chi se ne fa carico spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere di importo superiore ai 30.000 euro.